temere, no, perché ci sono io per difenderti. Entro veloce in una cabina, vengo a salvarti, poverina. Se stai subendo una rapina, ci son qua io, Superman. Lo so per il bene, io sono Superman. Rispettarmi ti conviene. Posso spassare